Conte è Juventus. Con Antonio il rapporto è cordiale, disteso, come deve essere. Le avrà sicuramente lette e ascoltate le parole del presidente Agnelli. Sì, no? Ciao, grazie, grazie. No, grazie, il legame indissolubile. Ma lei come vive questa vigilia? Vabbè, niente. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Tanto per chiarire, per chi non avesse seguito quello di ieri sera, siparietto tra Antonio Conte e Anna Billò, nell'audio di qui sopra, naturalmente, nel dopo partita di Inter Ludogorets nello stadio Fantasma. Comunque l'Inter passa, la Roma pure, e oggi i sorteggi sono stati una Italia-Spagna in piena regola. Inter con Getafe e il Siviglia per la Roma, che sta cambiando proprietario. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, come va? Non lo so, perché adesso c'è Filippo Maria Ricci che ci ha mandato un messaggio sulle avversarie delle italiane, quindi proviamo a capire come andrà. Beh, la prima considerazione è che quest'anno non ci facciamo mancare niente a livello di sfide tra Serie A e Liga, no? Dopo Valencia-Atalanta, Barcellona-Napoli, adesso andiamo con ordine. Inter-Getafe, do 55% all'Inter e 45% al Getafe, una sfida molto tosta. Il Getafe è la squadra tra virgolette più brutta secondo i canoni estetici del calcio in Spagna, della Liga, ma è anche la squadra più italiana. È una squadra che tende a non far giocare, è una squadra che sa perdere tempo quando deve perdere tempo, sa difendersi, ma sa anche attaccare. Bordalás, l'allenatore, ha fatto un miracolo, li ha presi in seconda quando stavano addirittura potevano in zona di retrocessione quasi per andare in seconda B, li ha portati in Liga, poi ottavo posto, quinto posto, quest'anno di nuovo quinti. L'anno scorso sono giocati l'arrivo in Champions col Valencia fino alla fine, quest'anno hanno grandissime possibilità di finire tra le prime quattro. È una squadra che a me piace, e niente, per cui l'Inter dovrà stare molto attenta. L'altra sfida, intanto ovviamente si parte da Monchi, no? Monchi è tornato a casa dopo l'esperienza romana, con alcuni momenti positivi, no? Poi altri ovviamente negativi. E il Siviglia, adesso c'è Lopetegui come allenatore, una squadra da alti e bassi, ha grandi qualità offensive. Ocampos è sicuramente un ottimo giocatore, però ha anche delle grandi debolezze. Rappresenta un po', secondo me, il carattere del suo allenatore, ogni tanto un po' fragile, non sempre brillante, per cui questa è una sfida aperta, io la darei al 50%, e niente, ovviamente con la speranza che passino tutte le italiane, tutte e quattro dico, compreso il Napoli. Ciao! Così va Pierluigi Pardo. Dunque, Getafe molto poco spagnolo contro l'Inter, il Siviglia di Monchi per la Roma, come va? Sì. Te lo chiedo io. Poteva andare meglio, onestamente, poteva andare meglio. Anche peggio. Sì, anche peggio, ma insomma è andata abbastanza male, secondo me. Cioè, nella scala delle possibilità non sono state particolarmente fortunate. Però, insomma, amen. Tanto voglio dire, la Coppa. Nella Coppa devi, se vuoi andare avanti, devi a un certo punto arrivi a delle sfide che sono complicate. Non puoi pensare di affrontare sempre, con tutto rispetto, il Ludogorets e tutto sommato anche il Genk, che certo, nella partita di ieri si è un po' sgonfiato, secondo me. E quindi, insomma, sono d'accordo con le percentuali di Filippo, soprattutto sulle caratteristiche. Cioè, il Siviglia ha sicuramente più talento e più estetica rispetto al Getafe. Il Getafe è una squadra un po' più tosta. Sono tutte e due molto equilibrate. Sì, forse l'Inter, per quello che ha fatto vedere quest'anno, se scenderà in campo con il focus giusto, è favorito. Ma io quella della Roma mi sembra proprio una sfida veramente pari. Sì, anche a me. Quanto all'Inter, molto dipenderà da quanto succederà nello stadio Fantasma domenica sera. E benvenuti a Milano, stadio San Siro, vuoto, pronto ad ospitare Inter Ludogorets. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Lukaku al limite, Sanchez ancora per Lukaku, due volte di testa la spinge dentro, il gol di Lukaku. And the that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Sì, l'atmosfera è sicuramente strana. Non è semplice, perché sembra alla fine uno, soprattutto all'inizio, le sensazioni possono essere di un allenamento, no? Di un allenamento del, deve essere di un allenamento del giovedì. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Abbiamo già affrontato partite impegnative, e c'è domenica un'importante gara contro la Juventus. Non è questione di partita, non partita, ho detto che alla fine di questo ciclo capiremo quanto siamo distanti dal vincere. Come direbbe Antonio Conte, agghiacciante quel silenzio che abbiamo ascoltato. Sì, anche se abbiamo ascoltato le canzoni più belle della storia. È chiaro. Alla fine non tutto il male viene per nuocere, insomma. Allora, io saluto, giochiamo di questo derby d'Italia silenzioso, stranissimo, con Antonio Di Pollina. Ciao Antonio. Ciao, buongiorno. Buongiorno. E uno che viene accusato in questo momento da gran parte del tifo bianconero di essere un pericoloso insider, Massimo Zampini. Ciao Zampini. Buon pomeriggio. Spiega tu il perché. E che è successo? Adesso te lo faccio raccontare perché. Perché ero andato a Lione a vedere questa bella partita. La foto. E dopo ci ha raggiunto la nostra amica Francesca Brienta con il suo compagno, che è, credo, un tipo conosciuto. Sì. E che quella sera aveva combinato qualcosa di non buono, Rudy Garcia, e ovviamente gli ho fatto i complimenti, ci siamo tra l'altro bevuti un bicchiere insieme in totale tranquillità, e niente, ci ha fatti una foto insieme, perché chi vince, no? Merita tutti i complimenti e basta. Sei colluso con il nemico, ma va bene. Esatto, perché? Io sono... No, aspetta, perché quindi ti hanno rotto le palle su questo? No, io gli rompo le palle, diverso. Qualcuno scrive sempre, lui al tempo, i violini, ma questo non c'entra, figurati, ero il primo a criticare peraltro la reazione secondo me eccessiva di Garcia sotto, dopo quello Juventus Roma, per troppo tempo, quindi lo ribadisco e lo direi anche a lui se avessi più tempo. Anzi, un paio di riferimenti al violino glieli abbiamo anche fatto. Sono io il molestatore, quello che fa la parte del molestatore social, sono io. Il sobillatore. Antonio, buongiorno, ti risaluto. Senti, parlami di quel silenzio agghiacciante che ascolteremo domenica sera, e dimmi anche un'altra cosa. Altre soluzioni erano impossibili, dal rinvio della partita al cambio, alla soluzione esotica di un cambio di sede, andare a giocare in un'altra parte d'Italia o del mondo. Magari da Abu Dhabi, dove hanno appena sospeso. Sì. Esatto, da Abu Dhabi, esatto, dove non può entrare nessuno. Poteva essere un bel segno, invece, secondo me, anche di immagine, forse di un lampo di luce alla fine di questa settimana di disagio profondo, la televisione accesa su questa partita silenziosa. Intendi diretta, chiaro, sì, diretta e chiaro. So che ci sono ovviamente problemi legali, lo sappiamo tutti, poteva essere risolta la questione con l'ennesimo decreto governativo, cosa che probabilmente non c'è stato, è stato forse un pensiero di retroguardia, insomma, in questo momento. Credo che non siano solo i problemi legali, credo che sia stata anche la sicurezza, che scoprire che magari andava su TV8 e scoprire che un canale simile con una partita simile in chiaro poteva fare il 30-40% avrebbe destabilizzato, credo, il dibattito futuro sul calcio in televisione. Credo che si siano messi paura, ecco, su una cosa di questo genere, si è detto per un po', ma poi si è mollato subito l'ipotesi. Perché, come diceva quello, a pensare male, secondo me, un po' ci si azzecca. Secondo me non volevano creare un precedente simile che avrebbe fatto uno sfracello assolutamente di ascolti in una condizione totalmente anomala, ma poi si sarebbe cominciato a dire, e già un po' lo si dice, ma non è il caso di rilanciare un po' il calcio in chiaro. Io sono abbastanza convinto che abbia giocato anche questo. Qui abbiamo il paradiso del calcio in chiaro, perché la Champions in chiaro la racconta per Luigi Pardo. No, ma adesso a parte chi la racconta, io andrei sul tema più complessivo, con tutto rispetto per la questione televisiva. che chiaramente è un risvolto. Io credo che insomma sia... Dipende che segnale vuoi dare. Qui ogni giorno ci svegliamo e ci capiamo pochissimo. Ci sono dei momenti in cui prevale il panico, ci sono dei momenti in cui prevale invece il senso di serenità e di ridimensionamento di un'emergenza, che comunque è un'emergenza, perché insomma anche gli altri paesi mi pare ce ne si sta rendendo conto. E quindi starei più sul discorso della partita a porte chiuse in una città che ha registrato relativamente pochi casi, forse 3 se non sbaglio, e in una situazione dove fra l'altro questa emergenza dovrebbe finire, se le cose non cambieranno, a mezzanotte, quindi 1 ora e un quarto dopo che è finita la partita. Francamente in questa situazione qui è abbastanza discutibile il fatto di giocare a porte chiuse, secondo me. Poi aderisco al lodo Condò dell'altro giorno, e quindi non si fa polemica, si accettano le decisioni, però l'importante è che ci sia un coordinamento, cioè se si vuole comunicare, visto che Juve-Inter è non soltanto una partita di calcio importante per lo scudetto, ma è una espressione dell'Italia nel mondo in un momento delicato, allora se l'idea è quella di comunicare il fatto che noi continuiamo con la nostra strategia di assoluto contenimento del virus, di isolamento delle persone, cioè con la linea dura per capirci, allora va benissimo. Se invece il messaggio vuole essere un altro, allora stiamo facendo una cazzata enorme. Lo esatto, dico sono d'accordissimo con te. Perché Inter gira nel mondo e allora francamente per due ore, a quel punto... Però ripeto, magari invece alla fine ha ragione chi... questa sindrome non la sottovaluta, e alla fine avremmo avuto ragione noi, e da un certo punto di vista me lo auguro. Ma io però penso che se si vuole mandare un messaggio, quindi se è uno strumento tra molte virgolette politico, allora la cazzata enorme l'abbiamo già fatta. Se invece è uno strumento importante di prevenzione della salute pubblica, allora va bene così. Questo è quello che penso. Massimo, tu cosa ne dici? No, secondo me il pensiero, appunto, non giudico io ovviamente, né giudica nessuno di noi cosa sia necessario, però secondo me il discorso di Piero è corretto, e anche Burioni quando era venuto a Tiki Taka lunedì diceva, al di là dell'interesse suo per la sua Lazio, forse la cosa più sensata allora, se davvero c'è da avere timori, è chiudere tutto, perché se i tifosi dell'Atalanta, del Torino, del Bologna, dei tifosi che vengono da regioni dove esistono degli infetti eccetera eccetera, dei contagi, e possono scendere, attraversare l'Italia, treni, aerei, andare a vedere partite in 1000, in 2000, in 3000 e mischiarsi quindi ad altri 20, 30, 40.000, si poteva anche fare forse allora un segnale completo e dire chiudiamo tutto, il campionato porte chiuse per una settimana e poi si riprende, vediamo da quella dopo. Così è veramente un mistero, perché non è neanche nella città, Pier, i 3, sono nel Piemonte intero i 3 casi, di cui 2 tra l'altro forse insomma, è un po'. Mi sembra un po' così, un po' random come cosa. No, ma adesso poi al di là degli aspetti tecnici che ci sono, certo, perché adesso oggi diranno che sono juventino, Juve Fiorentina, quando ho detto che non c'era il rigore del 2-0, ho detto che ce l'avevo con la Juve, fa parte del mio destino. È chiaro che da un punto di vista tecnico non è un dettaglio in nessuna partita, tanto più in una partita con un risvolto così importante. Ma lasciamo perdere la questione tecnica, della quale come Zampini e Di Polli la sanno, non me ne può veramente fregare di meno di chi vince il campionato. Credo che ci sia un tema in questo momento di immagine dell'Italia nel mondo. Sì, sì, quindi è vero, ripeto, è vero. Se l'idea è quella di dire la linea dura dell'Italia, l'isolamento, anche quel po' di panico eccessivo, devo dire, secondo me, che ci ha preso fra domenica, lunedì e martedì, se alla fine tutto questo è utile perché ci consentirà alla fine di avere meno morti e meno contagi rispetto ad altri paesi, allora benissimo, e magari diventa addirittura un esempio per gli altri paesi di non sottovalutare questa emergenza. Se invece, come sembrava nelle ultime 48 ore, c'era tutto un vento, i video su Milano, il sindaco Sala che dice riapriamo i musei, e addirittura Libero che titola adesso non esageriamo, cioè se il vento è quello, allora fare Juventus a porte chiuse è un errore. Se invece il vento è non ridimensionare e far capire che noi continuiamo con una linea dura, allora va benissimo, allora sì, è una cosa giusta da fare. Però ripeto, a un professore di comunicazione come Antonio Di Pollina, se la ragione è di comunicazione e di immagine, allora è tutto sbagliato, continua a pensare. Sì, possiamo ipotizzarlo. Il problema è dall'altra parte, cioè proviamo a metterci un po' nei panni di chi è nei centri di potere decisionali che riguardano tutto quanto. Ma secondo voi c'è qualcuno che può prendere decisioni che sono sicuramente logiche, definite come tali, certificate come tali, giuste? Cioè, io spero che se una task force di questo genere esista, sia concentrata nel settore sanitario e che stiano cercando il più possibile di fare le cose giuste che bisogna fare lì. Gli altri, per forza di cose, abbozzano, improvvisano, tentano di cose, poi ovviamente chi è condizionato dalla politica, chi è condizionato da altro, è un altro discorso, però io ora come ora ci andrei pianissimo con le valutazioni su ogni fronte e soprattutto per quanto riguarda il futile che ci piace di più nella vita e che è il gioco del pallone. Secondo me si sta andando per tentativi, abbozzando, cercando di rischiare il meno possibile, sperando che di non fare troppi danni. Se ci si riesce è già un grandissimo risultato. Certo. D'altra parte invece sull'altro fronte, Massimo, il tuo amico Garciate avrà detto nella cena dell'altra sera che di questi tempi la Juve meno la si vede meglio è. No, lui, diciamo, lui l'unica cosa che ha detto è che, ma una cosa banale ovviamente, che conta di far gol, e se fa gol sostiene di avere buone possibilità, però questo è chiaro, non serviva che lo dicesse lui, l'obiettivo sarà segnare. No, è chiaro, la Juve l'abbiamo vista l'altro giorno un po', è meno, non c'è poco da fare, da un'impressione di minor solidità di un tempo, e non avendo ancora trovato però la capacità di creare pericoli, perché non crea neanche pericoli in più rispetto al passato, anzi abbiamo chiuso la partita senza un tiro in porta, la partita tanto attesa da 2-3 mesi, andiamo, vedrete, poi arriva la Champions, l'abbiamo chiuso sostanzialmente senza un tiro in porta, pur essendo in svantaggio dalla fine del primo tempo, quindi che qualcosa non sia andato è inutile proprio negarlo assolutamente, cioè qua la squadra non ha ancora recepito il messaggio dell'allenatore, o meglio, l'allenatore non è ancora riuscito a farlo capire. Sì, e a quest'ora mi sembra anche vagamente tardi, tanto che, non so se l'hai sentito ieri sera, ospite di Giuseppe Cruciani, Flavio Briatore, se non l'hai sentito te lo faccio sentire io adesso, non ci è andato giù tenerissimo. Questa Juventus è un disastro, eh? Ma io credo che quando c'è un professore che non riesce a far capire alla gente cosa deve fare, succede quello, no? Basta vedere anche ieri, l'altra sera, Bonucci, quando ha rimproverato Matuidi, no? Per cui mi sembra che Sarri ha perso un po' il feeling con i giocatori. Sarri, non, secondo te dunque, non è, diciamo, non è uomo da Juve? Io non l'ho mai visto Sarri uomo da Juve, perché anche perché è andato a Napoli, ha sempre giocato bene, ma non ha mai vinto niente, per cui non vedo Sarri, preferivo Max o Guardiola, però c'è Sarri adesso, per cui facciamo fronte e vediamo cosa succede. Però la partita di ieri, il primo tempo, è uno scandalo. Beh, Pierluigi, mi sembra che sia il pensiero trasversale di tutti gli juventini, ma anche di molti dei commentatori. Sì, sì, insomma è una Juve fragile ed è una Juve, detto bene Massimo, cioè non è più pericolosa rispetto al passato davanti ed è anche meno solida dietro, e soprattutto ci sono delle cose non da Juve, lo ripetiamo ogni giorno, cioè questa squadra non sembra la squadra feroce, cattiva, anche fortunata in certe circostanze, quantomeno in Italia, che si è vista negli ultimi anni, dove per fortuna, io non credo nella fortuna, no? Intendo però quella capacità di andarci a prendere le situazioni che nel calcio sono importanti. Ecco, in questo momento sembra il contrario, sembra una squadra abbastanza con un vento abbastanza basta guardare quando ha preso il gol con De Ligt fuori a farsi curare la testa, no, in quel momento lì ha preso il gol, esatto, ecco, la spiga ci vede benissimo, perfetto, esempio perfetto, e quindi la scintilla poteva essere rappresentata dalla Champions League con tutta la squadra adrenalina, e invece no, invece non è arrivata, vedremo se arriverà adesso nel derby d'Italia, però insomma in questo momento io le mie convinzioni ce l'ho, secondo me la tendenza di questi ultimi due mesi e mezzo è molto chiara, c'è una squadra che gioca nettamente meglio delle altre, che è nettamente più forte delle altre, che è la Lazio, poi ci sono due sfidanti, cioè due alternative, che sono una, sono i campioni in carica, ti danno sempre la sensazione di poter risorgere da un momento all'altro, ma fin qui non l'hanno data, e la terza è una squadra che sta lì e che eroicamente si tiene aggrappata alla corsa scudetto. Questo è come vedo io lo scenario delle tre. Tu, Antonio, invece, da interista che si avvicina alla Juventus in queste condizioni, come la vivi? Diciamo che avrei preferito arrivarci con una Juve con meno ansia, un po' più rilassata, che avesse fatto un risultato tranquillo in Coppa e ce l'andavamo a giocare. Adesso il fatto che ci andiamo a ficcare dentro questo psicodramma che stanno vivendo loro può essere un vantaggio, ma può anche essere esattamente il contrario. Poi metteci lo stadio vuoto e tutto quanto che arricchirà tutto lo storytelling, scusate la parolaccia, della situazione, può succedere davvero di tutto. E comunque se dovessimo vincere, credo che ne uscirei con il pensa quanto sarebbe stato meglio vincere con lo stadio in silenzio per altri motivi, ecco. Sì, però devi spiegarmi dove sta lo svantaggio, perché se avesse vinto a Lione anche in maniera comoda, vuol dire che ti avvicinavi ad una Juve con grande fiducia che non era in questa sorta di psicodramma. Io dico meglio andare in casa del Leone quando è molto, secondo molto addormentato. Secondo me vale, hai ragione, ma forse vale di più con squadre di altro tipo e non con squadre che hanno quella solidità e quella storia e quella rabbia dentro storica che possono trasformare da un momento all'altro in cose positive. La Juve è un po' un'eccezione da questo punto di vista, ma è il mio parere e può anche essere sbagliato. Sì, ecco, il famoso elettricista che non è ancora arrivato, Massimo, non so se arriverà in tempo per domenica sera, cioè quello che accende la corrente. Io da interista preferisco andare lì, cioè, se fossi interista preferirei andare lì con la Juventus in queste condizioni. Sì, credo di sì, perché sembra che ci sia un piccolo scollamento anche sentendo le dichiarazioni, le cose. Non è esclusivamente una partita o un piccolo periodo andato male, è proprio da capire se il gruppo, tutti credono in questa nel progetto, come dire, anche se siamo già a marzo, oppure no. E questo è il vero dubbio, perché per il resto c'è questo refrain che diciamo sempre, che però in realtà l'ha detto anche il presidente da voi lunedì, cioè che siamo comunque in ballo su tutto a marzo e siamo forse vicini alla finale Coppa Italia, possiamo ribaltare e se battessimo l'Inter avremmo un'ottima possibilità anche di andare avanti nel campionato, quindi il tempo c'è secondo me ancora. Però, pian piano, ecco, arrivano gli impegni definitivi e tra un po' il refrain non vale più se non ribaltiamo qualche risultato o questo trend. Quindi è il momento vero di svegliarsi. Juve-Inter per me è veramente più fondamentale di quanto avremmo potuto pensare nei mesi scorsi. Sono d'accordo, Pier. Sì, sì, ma il tempo c'è, attenzione, il tempo c'è. La Juve può ancora centrare grandi traguardi, è vicinissima alla finale di Coppa Italia. Per me può ribaltarla con Lione, ad oggi secondo me è 55% Juve, 45% Lione o 60-40% per la Juve, però ecco, essere arrivati così a questa situazione fa un po' effetto, ma soprattutto quello che ripeto ogni giorno è la tendenza è brutta. Perché la Juve d'autunno era meglio di questa. Ma vedi, c'è una discrepanza, Pier, tra la carta che dice quello, no, che se tu leggi il foglio delle classifiche, la situazione è quella che hai detto tu. E la tendenza però dice tutt'altro. Secondo me conta di più la tendenza, che non la carta sempre, in questo momento. Ve lo ricordo che da dicembre, da fine novembre in poi, la Juve ha recuperato 7 punti, la Lazio ha recuperato 7 punti alla Juve e 9 all'Inter. Quindi cioè, questo è quello che sta succedendo. Poi ripeto, può darsi pure che io non ho la palla di vetro, che improvvisamente si possa bloccare la Lazio perché gli viene il braccino, perché ha la panchina corta, però passano le settimane e questa sensazione non c'è e la Lazio riesce a cavarsela in situazioni anche apparentemente molto complicate, con degli infortuni, con degli acciacchi, e invece insomma la Juve questo segnale di crescita non lo dà. Poi può essere, ripeto, può essere pure che si svegli, è un'ipotesi anche probabile. Sì. Però non così certo. Però guarda, un altro segnale di quanto la Lazio ci creda sta nella figura, secondo me, non bella che ha fatto lo Tito negando all'Atalanta l'anticipo dal sabato alle 18, al venerdì sera alle 20.45, quello che è della partita del prossimo venerdì. L'Atalanta aveva chiesto questo anticipo per avere più tempo per andare a giocare una partita fondamentale a Valencia. Lo Tito ha detto: niet, non si può, non ve lo lascio fare, siete miei amici in Lega, me ne frega niente, la partita non si anticipa, si va così. Non bella figura questa. Non grande fair play, anche perché poi non in grande realtà, fair play, bravo. Anche perché poi in realtà qui sì, qualcuno può pensare che l'Atalanta tiri indietro la gamba un po' di più perché c'ha qualche ora di meno per recuperare, ma l'effetto è più sulla partita col Valencia. Cioè, io credo che nel mancato cambio, nel mancato anticipo della partita, chi festeggerà di più è il Valencia. È il Valencia, eh sì, della Lazio, che avrà invece quel tempo lì in più per recuperare, quindi, perché anticiperà al venerdì. Però per l'appunto, evidentemente lo Tito vuole giocarsi fino all'ultima carta, compresa quella abbastanza sgradevole dell'assenza di fair play. Per chiudere, Antonio Di Polina, cosa chiederesti a Conte se gli facessi una telefonata? Di non pensare troppo alle coreografie che avevano preparato per lui, probabilmente, visto che non le vedrà, di rilassarsi anche un po' sulle domande, di prepararsi qualche battuta per quando va in televisione e sa che gli chiederanno di Andrea Agnelli prepararsi una battuta al doc. Eventualmente convochiamo una sorta di sì, circolo di autori. Anche perché mai come in casi così il silenzio fa rumore, eh? Esattamente, e di non di uscire da questo loop in cui riesce a infilarsi sempre dentro in quei momenti lì di difficoltà. Però probabilmente se ci riuscisse non sarebbe Antonio Conte su tutto il resto del tronco. Però ieri autogol, eh? Ieri autogol. Sto dicendo appunto quello. Sono d'accordo, perché insomma, voglio dire, lì si può sorridere, si può fare un no comment, ma devi avere una battuta pronta, diplomatica, certo. Devi essere preparato prima, devi avere una battuta. Mi chiederanno sicuramente quello e io gli tiro fuori una roba che neanche David Letterman gliel'avrebbe detta. Pronti via, si ride, no, si va e si passa al capitolo successivo. L'importante è che non prenda lo stesso così compilatore di copioni di Sarri, Massimo, perché, ecco, perché se no è un problema. Sì, quello che lo direi stesso uomo comunicazione di Sarri. Sì, allora al di là della comunicazione, quello che direi io personalmente a Sarri invece sarebbe di mostrare ai ragazzi, a se stesso, l'interview dell'andata, perché noi ci dimentichiamo che c'è già stata, pure in pochi mesi, una Juventus che ha convinto in alcune prestazioni e soprattutto sembrava voler arrivare verso una nuova anche idea più propositiva, più dominante, e c'è riuscita benissimo in partite complicate come a Madrid, come con l'Inter. E poi cosa è successo? Quindi la prima cosa che direi è riguardatevela tutti, giocatori, allenatore, tutti, cercate di capire cosa non funziona più. Questa però potrebbe anche essere un aggravante, ma noi continuiamo a parlarne dopo, mentre vi saluto. Massimo Zampini, Antonio Di Polina, grazie davvero. Pierluigi, invece sto con te. Dopo parleremo di queste, di molte altre cose con, direi, un'icona di un calcio interessante e molto diverso da quello di Cristiano Ronaldo. Parleremo con l'anti Cristiano Ronaldo, facciamo così. Ma che senso ha il calcio con gli stadi a porte chiuse, le partite a porte chiuse? Meglio non giocarla per niente, spostiamo la partita se proprio dobbiamo, ma non ha senso giocare a porte chiuse, è la mortificazione del calcio. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Questa situazione nasce da una follia collettiva post Juventus Ajax. Si è voluta fare una rivoluzione senza farla, perché non si sono cambiati gli uomini, si è semplicemente deciso di dare in mano a Sarri la stessa squadra di Allegri. Uè, Conte, sono finite le scuse, eh? Adesso sono 2 settimane che ti prepari per questa partita. Tutti convocati, adesso vediamo come te la cavi. Grazie per il trailer, caro amico ascoltatore, via WhatsApp 349-238-6666. Questi gli umori di un paio dei nostri ascoltatori, sempre molto divertenti su WhatsApp. Riccardo, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao. Un ragionamento controtendenza, magari mi sbaglio, io sono un tifoso interista, però secondo me domenica sera giocare a porte chiuse potrebbe trarne vantaggio la Juve, perché comunque penso, visto questa tensione di queste ultime partite, è poter giocare lì tranquilli, Non lo so, magari mi sbaglio, però potrebbe essere un vantaggio. Voi cosa ne pensate? Io non ne ho la più pallida idea, non so tu Pierluigi. Io neanche, perché purtroppo ho la palla di vetro, ce l'ho in manutenzione perché era ammaccata. Ma hai commentato tu partita a porte chiuse, vero? A parte le battute. Sai, non mi ricordo, veramente non mi ricordo. Forse, non ricordo, forse porte sì. Chiuse. Non lo so, posso non ricordare. Stai invecchiando, amico mio. Sono bollito, sì. No, direi di no, comunque. Se non me lo ricordo, direi di no. No, io penso di no. Io credo che sia un vantaggio per l'Inter. Credo sia un vantaggio per l'Inter, nel senso che comunque quello stadio lì significa 40.000 spettatori, di cui 38.005, perché poi ha un settore ospiti anche abbastanza piccolo e poco rumoroso, quindi per definizione, insomma, credo che la spinta dello stadio ci sia. Sì, poi è vero che però, magari può trasformarsi in clima ostile, sì, però ragazzi, non ho idea. Insomma, dai, mi pare che adesso, anche se guardiamo i numeri del campionato della Juve, le partite in casa e le partite fuori, cioè, mi sembra una discreta differenza. Sì. Adesso vado a memoria, credo che in casa abbia forse soltanto pareggiato una partita. Sì, mi una roba del genere, ma comunque non lo so. Ha perso a Roma con la Lazio, ha perso a Verona, ha perso a Napoli. Quindi in chiave puramente teorica, se giochi in casa tua e non hai il tuo pubblico, dovrebbe essere uno svantaggio. Questo in chiave puramente teorica. Senti, ti faccio sentire una canzone, ti faccio ascoltare una canzone di un tuo amico. Venezia è bella, ma non è il mio mare. Il treno è fermo, io sono stufo di aspettare. In questo mondo che è pieno di lacrime, io certe volte dovrei fare come Dario Hübner e non lasciarti a casa mai e consumare le unghie. Tuo amico Calcutta, sì, Dario Hübner lo conosci invece? Dario Hübner pure mio amico, poi Edo lo vedo un po' spesso, però ho incontrato anche Darione e credo che, insomma, all'inizio non avesse capito la canzone, cioè, no, ti piace la canzone, Dario? Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Ma guarda, ve l'avevo già detto, la prima volta che l'ho ascoltata sono rimasto un po', non so, non avevo ben capito. Buono questo! Sì. Poi ho fatto ascoltare i miei figli, che sono più giovani, sono più svegli, diciamo, no papà, guarda, una bella canzone, una bellissima canzone. Senti Dario, hai scritto del resto, scusa, uno dice, ma che vuoi da me? Questa è la prima sensazione, ma in realtà quella canzone con linguaggio ermetico di Edo, di Calcutta, è una canzone che celebra la splendida normalità di Dario Hübner, che è uno che ha sempre segnato senza mai snaturarsi, giocando essenzialmente in provincia. Veramente è una di quelle icone del calcio. Bravo, esatto. Dico, ma nel senso più bello, più profondo, no? Di quelle contro icone, con no? Con la sigaretta, con la birra, con però insomma una grande professionalità. Una contro icona, ti senti un po' l'esatto opposto di Cristiano Ronaldo, con un unico comune denominatore, quello che anche tu hai segnato un sacco di gol. Non quanti lui, ma tanti. Ah no, ma che quando giocavo ero un professionista anch'io, perché quando c'era da allenarsi, c'era bisogno da impegnarsi, mi impegnavo, diciamo che all'epoca già era un po' più diverso, ecco, eravamo un po' più diversi, noi incominciavano a uscire i preparatori atletici dove tutti li odiavano, perché poi all'inizio erano odiati da tutti i giocatori. Mi ricordo quando ero giovane io, i primi giocatori che smettevano, erano 30-31 anni, si smetteva di giocare a calcio. Dopo, grazie a loro, adesso le carriere sono allungate, però i primi anni posso assicurare che i preparatori atletici, quando li vedevi entrare in campo, dicevi, ma cosa c'entra questo qua nel calcio? Fino a ieri faceva atletica, cosa vogliono questi? Ci facevano fare esercizi particolari, e diciamo sempre, ma andate a correre, andate in palestra, andate in piscina, andate a fare un giro nei campestri. E poi invece questi lavori specifici hanno allungato sicuramente le carriere dei giocatori. Sì, un po' ricorda di un altro calcio che profuma di spogliatoi di lusso, sì, ma di confine. E comunque tu... 12 adesso sono Wikipedia davanti, devo dire la verità, 12 anni consecutivi in doppia cifra, dalla Serie C alla Serie A, primo anno a Fano, 5 anni sempre in doppia cifra a Cesena, 4 anni a Brescia, 2 anni a Piacenza, l'anno dei 24 gol a Piacenza, il 2001-2002, cioè, insomma, va bene tutta l'anima indie, no? L'anima così da controeroe, ma insomma stiamo parlando anche di un grandissimo attaccante. Perché ha scritto questo: mi chiamavano Tatanka, io il re operaio dei bomber di provincia. Meraviglioso il sottotitolo, bellissimo. Di gol ne ha sempre fatti, ma tra l'altro, questa forse non so se l'hai già trovata su Wikipedia, Piera. Sai che il debutto in Serie A di Hübner, lui aveva 30 anni, Inter Brescia, 31 agosto 97, lo stesso giorno in cui debuttava. Debuttava chi? Lo sa Padre. Chi debuttava? Siamo rovinati. Non lo sa Padre, Inter siamo rovinati. Brescia, 31 agosto 97. Recoba fece doppietto in quella partita, ma un altro, un po' più su. Vai su, sali. Come devo salire? Ronaldo. Ah, Ronaldo sta per 31 agosto 97. Tra l'altro, posso dire quel giorno lì, adesso se non sbaglio, è il giorno dell'incidente stradale di Ladidiana, di Ladidì. Ne sono praticamente certo. Il 31 agosto del 97, prima giornata di campionato, e vabbè, però insomma. Dario l'ha ricordato nel libro. Perugia Fidalisandria 4-1 per Telepiù. Con gol di Materazzi, secondo me. Invece tu, Dario, tra l'altro, hai ricordato che quel giorno ha ragione Pierluigi, fu quello dell'incidente di Didi. Il fatto che io quella sera là, da mezzanotte fino alle 3 di notte, guardavo il televisore perché volevo il successo, per cui ho dormito poco anche quella sera là, un po' per la tensione, anche se la tensione non era tantissima, perché ripeto, quando tutte le partite che facevo non ero mai teso. Dovevo essere concentrato per dar tutto in campo, poi potevo far gol, potevo non far gol, potevo vincere, potevo perdere, l'importante è che davo tutto, poi se vincevo perdevo, se gli altri erano più forti gli facevo i complimenti. Sì, questa è una gran bella filosofia. Dopo il traffico, tu stai con noi, Dario, vi ricordo com'è finita Inter Brescia 31 agosto 97 e i marcatori. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, Pierluigi, prendi nota, 31 agosto 97, Inter Brescia segna il qui presente Dario Hübner, la partita del debutto di Ronaldo, il fenomeno nel campionato italiano, assist di... Non c'era Andrea Pirlo, una palombella bellissima, bellissima da quasi metà campo, dove io la stoppo, me la ricordo benissimo perché me la... A parte che l'ho vista 100.000 volte, perché tutti i miei amici tra WhatsApp, oggi c'è con Instagram, così me l'ha fatta vedere 1.000 volte, però me la ricordo benissimo. L'avevo stoppata di ginocchio sinistro, no, ginocchio destro, poi mi sono girato e il volo di sinistro l'ho messa sotto il 7. Hai capito? Mi mancava Galante. Hai capito? No, un bel gol, me lo ricordo. 16 anni quell'anno. 16 gol, scusa, 16 anni, sono bollito, sono proprio bollito. 16 gol quell'anno. Sì. Su quanti assist di Pirlo? No, diversi, c'era l'anno che c'era Pirlo faceva il trequartista, per cui era giovane, il primo anno della serie, quando ancora non c'era quella Mazzoni che faceva il centrocampista basso, faceva il trequartista ancora. No, un paio di assist me l'aveva fatti quell'anno là. Poi doppietta di Recoba e Brescia sconfitto 2-1. Come giocò Ronaldo? La prima partita mi ricordo che era, chi lo marcava, se non sbaglio, era Salvino, mi diceva questo è una scheggia, non è un uomo, una scheggia. Perché era talmente veloce che faceva veramente paura. Però mi ricordo che un paio di volte che io non lo marcavo, però lo guardavi, vedevi che c'aveva qualcosa in più confronto noi esseri umani. Confronto noi esseri umani non è male. Senti, Van Basten oggi, bellissima intervista di Van Basten su 7 del Corriere della Sera, dice: pensavo di giocare fino a 38 anni insomma il mio pensiero normale era giocare fino a 38 anni come poi hanno fatto i miei compagni, da Maldini ad altri. Tu hai smesso a quanti anni? No, per il professionismo 38, sì, poi mi sono divertito fino a 42 nei dilettanti, però nel professionismo 38. Sì, 38, quindi tu a 38 ci sei arrivato, Van Basten no, però quegli anni, ho letto nel tuo libro, sono stati anche più letterari, quando dici tu mi sono divertito, un po' i soldi arrivavano, un po' no, un po' le trasferte le pagavi tu, un po' dovevi fare un milione di miliardi di chilometri per andare a fare allenamento. Era altri anni, un po', ripeto, Van Basten credo che purtroppo ha dovuto smettere presto, sennò anche lui era, cioè parlavamo di un giocatore che per me forse avrebbe fatto la storia anche del calcio europeo, perché anche lui era un giocatore straordinario, a livello di Ronaldo. Io ero un giocatore normale, guarda, io dico sempre, anzi devo ringraziare i miei compagni che mi hanno messo in condizione di far gol, perché io ero bravo a tirare in porta, va bene, ero freddo, però credo senza i compagni vicino che ti mettono in condizione di tirare in porta, non, l'attaccante non è nessuno. Quando, anche oggi, quando vedo e ascolto spesso la vostra trasmissione quando vado a Mantova, perché di solito al mercoledì vado a fare allenamento a Mantova con i miei ragazzi, li ascolto sempre dalle 2-3, sono in macchina, per cui li ascolto sempre, e molte volte si parla di attaccanti, questo fa gol, questo non fa gol, però alla fine io credo che per l'80% è fondamentale la squadra in cui gioca l'attaccante e come lo mette in condizione per tirare in porta, perché poi l'attaccante è bravo se tira in porta. Io c'è l'esempio massimo di Higuain quando era al Napoli faceva 1000 gol, è andato alla Juve, ha fatto 1000 gol, ha fatto 3 mesi al Milan, sembrava un altro giocatore, ma non era colpa il 90% di Higuain, era colpa del Milan che non metteva in condizione di tirare in porta. Poi adesso è tornato alla Juve e vediamo che se gli passi 2 palle un gol te la fa, per cui ripeto, e sono bravi, ripeto, per me il attaccante è bravo quando dietro c'è una squadra che ti mette in condizione di tirare in porta. E anche bisogna ringraziare i giocatori che giocano con te, ecco, perché se Ronaldo fa tanti gol o Immobile fa tanti gol, deve ringraziare i suoi compagni, ecco. Chi vince la classifica marcatori quest'anno? Ma credo che Immobile sia messo bene, non c'è nessun problema mentale, gioca per far gol, le cose gli vanno bene, poi trova, sembrerebbe quasi l'anno giusto come ho trovato io a Piacenza, quando c'è una squadra fatta su misura, mi portavano la palla e dovevo buttarla dentro, ti va tutto bene, poi è così. Ronaldo sicuramente si sa che quando gioca può far gol, è una Juve che qualunque giocatore può mettere in condizione di tirare in porta. Bisogna vedere se magari Ronaldo andando avanti in Champions, se qualche domenica lo farà riposare Sarri, credo che Immobile a questo punto giocherà tutte quante le partite, è più vantaggiato, diciamo, dai. D'altra parte, Pier, come tu mi dici spesso, gli attaccanti vivono di momenti, vivono di questa specie di magia, per cui quando è quel momento lì... Insomma, Dario ce lo può spiegare sicuramente meglio. Se tu proprio vai nel profondo e vedi di che cosa è fatta la partita di un attaccante rispetto a quella di un centrocampista o di un difensore, la partita di un attaccante è fatta veramente di attimi, di frazioni di secondo nelle quali quindi questa magia, questa fiducia, questa capacità di anticipare il difensore o di non anticiparlo fa la differenza. Un centrocampista di sostanza nella sua partita ha la sua partita fatta di cose completamente diverse, quindi di una sostanza, di una resistenza, di una serie di duelli fisici, è proprio uno sport diverso, no? Quindi secondo me l'aspetto mentale conta tantissimo, perché sì, non è che hai un centrocampista ha 50 situazioni, ha 50 duelli aerei durante la partita. Un attaccante magari ha 4 palle gol, ma quando ce l'ha, ce n'ha 2 o ce n'ha 1, no? E quindi la differenza tra far gol e non far gol lì è totale. Guarda, basta leggere, oltre al libro di Hubner, l'intervista di Van Basten che dice un gol vale l'altro, i gesti tecnici vengono esaminati, studiati, passati al microscopio, ma invece succedono e basta, sono figli del momento. Capisce. Non certo. C'è mai una vera spiegazione, il calcio è istinto al 90%. E dice che il compito di un attaccante è vivere esclusivamente per il gol, non deve pensare ad altro che a quello, magari altri giocatori hanno qualche pensiero diverso. A proposito di sempre di prendendo spunto da questa intervista, Van Basten parla molto male di Sacchi, dice non abbiamo mai avuto un grande rapporto, faceva zigzag quando non era mai chiaro e diretto, non ne parla benissimo. Leggendo queste cose mi è venuto in mente Sarri, Dario, e penso che se vuoi introdurre qualcosa di nuovo e di diverso in una squadra e con grandi giocatori, con giocatori che hanno vinto tanto, o sei il solito Guardiola che basta la parola, bastano le medaglie che ha sul petto, eccetera, oppure devi convincere i giocatori di qualcosa di diverso, giocatori che hanno già vinto tanto, che hanno già vissuto tanto, molto più di te, e devi convincere a cominciare da quelli che comandano nello spogliatoio, mi sbaglio? Ma sicuramente, sicuramente sì, è anche vero che conta moltissimo la società, perché credo che la società deve far capire che chi comanda, perché penso che sia importantissimo, importantissimo in una società sapere chi comanda. Dico, io penso che da piccolo interista, nell'Inter tanti anni abbiamo fatto, siamo sempre arrivati così così perché non sapevo chi comandava. Da quando è arrivato Mourinho, punto in bianco, aveva tutto in mano lui, l'Inter ha cominciato a vincere. Credo che sicuramente Sarri deve essere sopportato la società, e dopo oggi con i giocatori devono ascoltare il mister, però devono sapere che il mister è quello che comanda, il punto di riferimento è il mister. Poi ci sono i grandi giocatori, sappiamo benissimo che nella Juve ha la possibilità di mandare via tutti i giocatori e comprarne altri se non quasi più forti, perché alla Juve oggi come oggi ci verrebbero tutti i giocatori, per cui sa benissimo che qualunque giocatore della Juve, che se non c'è lui ci sarebbe un altro e forse anche più bravo, perché oggi come oggi penso che tutti quanti vogliono venire a giocare nella Juve, perché è una società seria, una società sana, una società che vince, per cui bisogna vedere questo, ecco. Dario, quando passi da Milano nei tuoi viaggi mi riesci a trovare? Certo. continuiamo a chiacchierare con grande piacere, intanto grazie. A breve ti aspetto, devo incastrare quell'altro, quello lì, quello che canta, perché dobbiamo dobbiamo pure cantare, dobbiamo fare questa roba, fare Hubner live con Dario Hubner, esatto, la faremo, duetto Hubner Calcutta prossimamente sugli schermi di Tiki Taka. Ciao Pierluigi, a presto. Ciao. Grazie a Claudio Schettone, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, tutti convocati weekend, domenica 17-19, ci sentiamo lì. L'unico frutto dell'amor è Dario Hubner, è Dario Hubner, l'unico frutto dell'amor è Dario Hubner, facci un gol.